Hello. Hello, Zito. Hello. Hello, Zito. Hello. Hello, Zito. Hello. My name is Mina. Hello. Hello, Zito. Hello. Hello, Zito. Hello. Hello, Zito. Hello. My name is Minsu. Hello. Bye-bye, Zito. Bye-bye. Bye-bye, Zito. Bye-bye. Bye-bye, Zito. Bye-bye. Bye-bye, Zito. Bye-bye. Bye-bye.